Sì, aspetta. Mi senti? Ok. E prova a suonare, cioè, non so se suono io, magari se tu senti. Io non sento la tua voce, è possibile? Ah, sì, vero, vero. Sì, un po' sì. È un po' bassa, riprova, per favore. Sì, lo sto regolando, infatti, sì. Sì. Se ho WhatsApp aperto, sento più WhatsApp che il computer. No, sento entrambi. Cioè, chiaramente da qui lo sento. Sento anche che riesce da. No, no. Solo il suono acustico sento. Sì, va bene. Ma sì, posso mutare la chiamata? No, non ti sento più su WhatsApp. Magari mi senti da Ninja. Eccomi. Ah, sì, ok. Ah, no, tranquillo. Sì. Però se c'è un modo per magari metterci in pausa su WhatsApp, perché sennò sento troppo da WhatsApp. Ok. chiudiamo proprio WhatsApp Va bene. e sfogliamo direttamente. Controlla che peraltro c'è una chat. Se io ti scrivo, Ah, ti sì, saluto. perfetto, ok, perfetto. Possiamo anche, guarda, io mo scrivo ciao, che è comparso, guarda sul monitor, nella Ciao, finestra. sì, ok, perfetto. Ok, quindi possiamo scriverci su. Solitamente si fa così. Ci Perfetto. vediamo, quindi torniamo. Ok. Ciao. Ciao. Ah, tra l'altro io posso parlare, mi dimentico questa cosa. Bruno. Ah no, sì, stavo cercando di capire, regolare le cose, ok. Infatti poi ho alzato il tuo volume e non rientra, quindi posso alzarlo. Ah, rientra. Ah, giù, perché rientra da te, è vero. Sì, adesso lavoro su questo qui, farò in modo che esca dalla cuffia direttamente. Sì, certo, cioè. Sì, no, è che prima ho messo la cuffia, ti ricordi, no? Cioè usciva comunque dal computer, non usciva in cuffia, devo cambiare le impostazioni. No, ma quello lì poi lo risolvo, è solo una questione di farlo un attimo. Lo so, sì, è fastidioso, sì. Sì, magari un attimo, sì. Grazie. Io qui ho ancora aperto, che faccio? Chiudo? No. Sì. Ah. Sì. Clicchi qua. Su questa cosa devo. Qui no? Real Ninjam. Sì. Questa qui è la lista dei tuoi effetti che c'hai magari installato sul computer anche a parte. Tu lo puoi configurare. Io ho una cartella VST dove tengo tutti e quello sono da c'è proprio nelle preferenze anche la possibilità di farti capire dove sono i plugin VST. Però è importante, tu devi considerare la catena qua, questo Rianinja come la parte finale di una catena. Quindi se tu vuoi farmi sentire che stai suonando con un chorus, il chorus lo devi mettere prima. Cliccando su quad, poi scegli un effetto, per esempio ora metto un chorus, ecco questo, ho messo questo chorus, che deve essere però messo, guarda come faccio prima di Reaninja, no? Così entra in Reaninja, Certo, capito? sì. Però guarda, questo è anche un bellissimo sequencer, diciamo che sostituisce tranquillamente Cubase, Logic, Sonar, i software che servono anche per registrare. Anzi, questa è qualcosa che gli altri software non hanno. Cioè, se io sto facendo un disco e ho un amico che vive a New York e gli voglio far mettere il basso a questo amico mio che vive a New York, Sì. in remoto, così lui registra da New York, ma io gli mando la traccia da qua, da dove sono io, da Roma, gli mando la traccia e non, che, cioè, siamo collegati su Ninja, qua io prendo il tasto di registrazione e lui, suonando da New York, registra sul mio computer a Roma, capito? Certo, sì. È Fantastico. spettacolare questo programma, è il miglior programma che esista Sì, per infatti fare è queste cose. fantastico, sì. Sì. Sì, dico, guarda, adesso smanettaci, anzi, il problema è che se tu entri in un server di questi pubblici, così adesso facendo sentire anche il beep di ritorno, magari la gente non gradisce molto suonare in questo modo, capito? No, E ti procuri certo. il jack, però poi vedi che ci sono anche, se tu vai a qua, fai il connect, Ah, vedi sì. una serie di server pubblici dove tu puoi entrare e se c'è qualcuno che suona lo vai a sentire, capito? Sì, è vero. Sì, ho visto, sì. Infatti è molto Dai, interessante. procurati questo jackino piccolo perché Sì. sarebbe la cosa ottimale e configura il computer in modo tale che l'audio esca comunque solo dalla tua cuffia, se vuoi suonare così. Altrimenti, se usi il jackino, puoi anche suonare come stavi suonando adesso. Sì, no, Vedi, mi ma sono dovrei perso rimediare il qualcosa. cavo senza problemi, sì. Sì, Benissimo, in questo modo puoi anche suonare senza la cuffia. Io prima stavo suonando senza cuffia. Tanto oh. la chitarra, cioè quello che entra non rientra nel computer, perché Certo. colpisce. Fammi sapere quando vuoi che cominciamo subito a suonare, Va va bene, grande Bruno, grazie mille. bene? Ok. Grazie a te, Gianfranco. Grazie di Ciao, caro. tutto. Ciao, Ciao ciao. Gianfranco.